Allora, buonasera, Anna. شبه همه شنوندگان بخیر، مخصوصا مسعود دوست مارگریتا و درود عرض میکنم به تمام شنوندگان. E allora buonasera a tutti e a tutti gli ascoltatori e in particolare a Masoud, l'amico iraniano di Margherita. E allora abbiamo ascoltato Mahmoud Ramanzi. On a écouté Mahmoud Ramanzi. Oui, c'est lui qui joue le sitar. Sinon, on a écouté Golor Jahangiri, qui c'est une exilée iranienne. C'est une femme qui a été à l'âge de 20 ans condamnée à mort. Et elle a réussi à fuir l'Iran et aujourd'hui elle habite en Allemagne. Et elle chante surtout toutes les poésies et les poèmes sortis des prisons. È écrit par les prisonniers politiques. E dunque sì, allora Mahmoud Ramanzi, che lui suona della sitar, invece lei come si chiama? Golor Jahangiri. Merci. che lei è una donna che ha sfuggito esilata politica, fuggito dall'Iran, è stata incarcerata e condannata a morte all'età di 20 anni e adesso suona e canta in maggior parte i poesie delle prigionieri politici. E siamo qua per parlare dell'incontro che si è svolta a Hanovre il weekend scorso, la fine settimana scorsa, che è un incontro di donne lesbiche iraniane che esiste da adesso 34 anni, è la 37esima edizione. Donc on est ici pour parler de la rencontre entre les rencontres de femmes et lesbiennes iraniennes qui a eu lieu à Hanovre la semaine dernière. C'est la 34e année et 37e édition. Et donc, si tu veux bien nous raconter un peu l'histoire déjà de cette rencontre, se puoi raccontarci un po' la storia di questo incontro, come è arrivato. Vabbè, questo. En fait, cette rencontre a commencé il y a 34 ans. Lorsque Khomeini en Iran a obligé les femmes de se voiler. Et les Iraniennes, elles ont descendu dans la rue, elles ne voulaient pas se voiler. Elles ont dit, on n'a pas fait la révolution pour voir nos droits en régression. Et donc, questo incontro a iniziato 34 anni fa, quando Khomeini è arrivato al potere. A quel momento là ci sono state le leggi che facevano l'obbligazione del velo per tutte le donne. Le donne sono scese in piazza per dire, guardate che noi non abbiamo fatto la rivoluzione per mettere questo velo. Et faire nos diritti et andare indietro. Malgré les manifestations et la protestation très forte et massive et pendant trois semaines des femmes, Khomeini et les islamistes, ils ont réussi à voiler les femmes. Malgrado questa contestazione, che ha durato anche 3 settimane, è stata molto forte, malgrado queste contestazioni delle donne, Khomeini e questo regime ha comunque islami, e questi islamici hanno vinto e comunque hanno fatto che le donne hanno l'obbligo del velo in Iran. Et à cette époque-là, il y avait une Iranienne qui s'appelait Azadeh Masoudi, que je ne l'ai pas connue. Elle habitait en Allemagne, à Hanovre, et elle habitait depuis, même avant la révolution là-bas. Elle décide d'aller en Iran parce que sa mère était malade, pour voir sa maman malade. A quel momento là c'era una donna che viveva, una donna iraniana che viveva in Germania da già un po', tu mi dici son nome? Azadeh Masoudi. E lei viveva già in Germania prima della rivoluzione e a quel momento là doveva andare in Iran per vedere la sua madre che era malata. E lorsqu'elle va all'ambassade de l'Iran en Allemagne, qu'elle veut demander son passeport, on lui demande de faire une photo voilée. Et quand on va à l'ambasciata, al consulato iraniano in Germania per chiedere dunque il passaporto, loro gli dicono di fare una foto con il velo. Elle n'arrive pas à croire ça. Elle dit mais en Iran, moi j'étais non voilée et aujourd'hui je veux retourner chez moi, mon pays. Et je ne veux pas mettre ce voile sur ma tête. Non, l'ambassade dit, de toute façon, tu ne peux pas y aller en Iran et si tu ne veux pas te voiler. Et non ci poteva credere, ma non è possibile che io comunque nel velo non l'ho mai messo e non è che adesso voglio tornare nel mio paese e mi obbligate a metterlo. La risposta dell'ambasciata è stata, guarda, comunque non è che c'hai la scelta, se ci vai devi mettere il velo. Elle décide de ne pas aller en Iran et à partir de là, elle va faire beaucoup de lettres, elle va écrire beaucoup de lettres aux instances internationales et à beaucoup d'endroits pour protester, pour dire mais moi je vais retourner chez moi sans être obligée de me voiler. Décide à quel moment là de non andare in Iran et inizia una campagna di lettere verso le istanze internazionali per contestare il velo. Et comme elle voit que sa voix, elle n'est pas entendue, elle décide d'aller voir les femmes iraniennes et rassembler les femmes iraniennes et protester ou organiser des protestations contre le voile en Iran. Et comme non fonctionne, lei decide di organizzare, di mettere insieme le donne iraniane per organizzare delle protestazioni contro il velo. Et donc, elles sont plusieurs femmes qui se rassemblent. Et au début, étaient 2-3 éditions par an. Elles se rassemblaient, elles discutaient, elles ramenaient des discussions, des débats et des sujets de lutte pendant quelques années, 2-3 fois par an. Et donc, à l'inizio, si svolgeva 2-3 volte all'anno, et loro si si incontravano sì, tutti insieme per avere discussioni intorno alle loro lotte, alle loro situazioni, e questo per qualche anno. Et petit à petit, ils prennent ampleur. Il y a beaucoup de femmes exilées iraniennes qu'elles sont obligées, pour leurs idées, et surtout des femmes gauches, elles sont obligées de quitter l'Iran, qu'elles sont installées en Allemagne. Et en fait, ce rencontre s'appelle rencontre annuelle des femmes féministes iraniennes et lesbiennes en Allemagne. Et tous les ans, un comité local des femmes iraniennes qui prend en charge dans chaque ville de l'Allemagne, Francfort, Berlin, Hanovre, Stuttgart, Cologne et beaucoup d'autres villes. Ecco, adesso devo dire due così. E dunque ci sono tante donne iraniane che sono comunque esilate per ragioni politiche, molte di sinistra sono sfuggite. E dunque questi incontri continuano una volta all'anno, sono prese si prendono in carica tutte le associazioni di diverse città ogni volta, associazioni di donne iraniane, e sono state a Berlino, a Stuttgart, a Colonia, eccetera, in diverse città, Frankfurt ed è venuta comunque l'incontro delle donne e lesbiche iraniane in Germania. E dunque la settimana scorsa era a Hanovre, donc la semaine dernière c'était à Hanovre, voici le contexte. Cette année, voilà, elle était, c'était assez particulier parce que le mouvement était parti de Hanovre et pour deuxième ou troisième fois, après 37e édition, revenait encore aux femmes hanovriennes ou aux femmes iraniennes de l'Hanovre. Et questa è un po' particolare perché questi incontri sono partiti da Hanovre 34 anni fa e per la seconda o terza volta ci ritrovavamo per questa volta all'incontro organizzato dalle donne iraniane che stanno a Hanovre. E la tematica di quest'anno, le thème de cette année? Le thème de cette année c'était sur la violence. La relation de entre la violence et le genre dans la langue. Et c'était fouiller dans la langue la question de genre et la violence faite aux femmes. E la tematica di quest'anno è la violenza e il legame tra la violenza, il genere nella lingua. O nel linguaggio, dipende un po' delle cose. Allora, si è iniziato, vabbè, la mattina sull'incontro organizzazione, punti organizzativi, perché abbiamo davanti a noi il programma, donc on a devant nous le programma, on a commencé par ça, e poi la prima sera c'è stato il primo incontro con tutte, la prima discussione che aveva come tematica. Donc le premier soir, le rencontre, déjà, c'est intéressant de dire que le rencontre, ça se fait une fois par an, pendant trois jours, vendredi, samedi, dimanche, en janvier, tous les ans, où les femmes iraniennes, c'est no mixte, c'est très important de dire que ce mouvement est no mixte, et c'est depuis, et comment on se retrouve en Allemagne, mais les femmes elles viennent un peu partout, de l'Europe, mais aussi d'Iran, mais aussi de l'Amérique ou du Canada. E dunque, sì, la cosa importante che volevo dire è che comunque ci incontriamo tutti gli anni, tre giorni, siamo tutti insieme, un incontro separato e le donne vengono da molte parti, Francia, Francia, Germania, anche un po' dappertutto dall'Europa, anche dall'Iran, anche dal Canada o dagli Stati Uniti. Et cette année, par exemple, le premier jour, on avait le critique féminisme de dialogue entre les femmes iraniennes en exil. Et quest'anno la prima discussione è stata sulla critica femminista del dialogo tra donne iraniane in esilio. Avec la thématique du pouvoir. Avec la thématique de... Bien sûr, après, à l'intérieur de ce débat, il y avait plusieurs personnes qui avaient des exposés, et la discussion était autour de pouvoir dans les milieux ou dans les milieux de lutte féministe et dans un mouvement horizontal. E dunque la questione principale era un po' la questione del potere nell'ambito di lotta tra donne che vogliono comunque andare avanti con una idea di orizzontalità. Et la deuxième jour, le deuxième jour, c'est enfin un des thèmes de deuxième jour, c'était la relation entre la langue, le genre et la pensée. Et ça, c'était une poétesse comme un chirurgien, comme une chirurgienne, elle regardait dans la langue la misogynie de la langue. Il secondo giorno era una poeta che ha fatto una cosa su misoginia e, nel linguaggio e ha fatto come un lavoro di chirurgo che andando a analizzare le parole sull'angolo femminista. Volevo andare un po' indietro perché fuori microfoni, cioè su questa cosa del dialogo sul potere, che trovavo molto interessante, che l'incontro si inizia su come tra noi facciamo e agiamo delle strutture di potere, come lei, cioè Anna raccontava che per esempio parlano di come prendono la parola, chi prende di più la parola, chi non la prende, le differenze che ci sono e come abolire queste differenze, in modo di dare la parola a tutte, sia dentro l'incontro, le discussioni, sia anche fuori quando si tratta di scrivere sulla rete. E questo anche in un contesto di donne esiliate, no? Sì, comunque, sì, sì. Quindi dunque iniziare l'incontro su questo mi sembrava molto importante. Sì. J'ai juste dit ce que je t'avais dit, no? O che j'ai fait le commentaire. Oui, e dunque, dopo la... La deuxième partie, c'était une iranienne qui elle avait un exposé, c'était d'une chambre à soi jusqu'à un espace public à soi et à soi pluriel, c'est-à-dire pour les femmes. Et donc la seconde partie del secondo giorno era un'iraniana che aveva fatto una comunicazione su da una camera a sé. E la frase di Virginia una Woolf, stanza da una, tutta per sé. Da una stanza tutta per sé a una stanza per tutte, plurale, l'idea di prendere spazio nello spazio pubblico collettivamente, questo era il comunicato. E ce qui était intéressant dans ce que cette femme exposait, c'était même si une femme a une chambre à soi, c'est-à-dire les murs, mais dans la langue, on n'a pas une chambre à soi, parce que cette langue était investie et est investie par les hommes, et nous, on n'a pas une lignière, un héritage d'écriture des femmes. À quoi on peut dire que c'est une chambre à soi, c'est une chambre à nous. Par exemple, Shakespeare, voilà, beaucoup de poètes, ils peuvent se dire alignés de Shakespeare, mais les femmes, elles n'ont pas ça. Dunque. Ah sì, allora è molto interessante perché lei diceva che sottolineava che la mancanza per le donne di avere sì, che se anche abbiamo una stanza tutto per sé, la stanza tutto per noi manca, perché è come nella lingua, nell'eredità di scrittura di testi, ci manca proprio l'eredità di testi e di scrittura di donne, e dunque ci manca la dei riferimenti, i riferimenti per noi come per esempio Shakespeare può essere un riferimento per molti poeti dietro, a noi ci manca proprio questa cosa, questa linearità, questa eredità. Sì, il linguaggio ha creato un mondo, ha descritto un mondo a misura maschile. Vuoi una pausa musicale? Sì, così... Ah, ma l'abbiamo perso la nostra, dove sta? Siete là? Volete presentarla? No, l'abbiamo già presentato, continuiamo. Ah, è sempre sì, lei? Ah, no, metti una di là che si chiama Iran, perché quello... è staccato e stalcato. Bene. Guarda, fantastico. C'è una che sì, si chiama trovata. Tu mi dis amour, nazi. questa canzone l'avevo scelto io perché non capisco, infatti dice Anna che è tutto il contrario di quello che pensa, perché lei canta come tu il mio paese, l'Iran mi manchi, molto diciamo, nazionalista, molto. Perfetto, e dunque, il contrario di quello che stiamo dicendo. La prossima volta sì, io cioè, ti chiedo le traduzioni prima di mandare le canzoni, cioè. Mandiamo poi su Sky, sappiamo bene. Posso fare una domanda prima di riprendere un po' il programma, che è comunque anche interessante dopo, perché tu hai detto incontro di donne e di lesbiche, ma secondo me 34 anni fa non si parlava delle femministe. Delle lesbiques. Je voulais te demander, parce que on a dit maintenant c'est une rencontre de femmes et de lesbiennes, mais à mon avis, il y a 34 ans, on ne parlait pas des lesbiennes. Non. Ça, c'est très nouveau dans le mouvement depuis maintenant 6-7 ans que existe. C'est-à-dire qu'avant, c'était la rencontre des femmes iraniennes en exil, rencontre annuelle des femmes. Et là, ça a changé parce que depuis quelques années, plus de 10-15 ans, des lesbiennes iraniennes, elles ont commencé dans le milieu féministe et revendiquaient une visibilité. Et il y a. È vero, infatti questa cosa è da 6-7 anni che si chiama così, perché da 10-15 anni le lesbiche sono presenti in questo incontro e in questo momento da 6-7 anni le lesbiche hanno chiesto di avere visibilità. Et à cette époque-là, bien sûr, il y a eu une scission dans ce mouvement parce que les lesbiennes aussi voulaient que leur visibilité soit visible aussi dans l'intitulé de rencontre. C'est pourquoi la rencontre des femmes iraniennes et lesbiennes, des féministes iraniennes, des féministes et lesbiennes iraniennes en exil, en fait. E allora c'è stata una scissione, una separazione perché in questo momento c'è le lesbiche rivendicavano anche nel titolo di un incontro la parola lesbica. Elles se sont séparées. Oui, il y a eu une session. Bon, certaines disaient que des lesbiennes peuvent être ici, mais pourquoi on change le nom de l'intitulé de rencontre et pourquoi vouloir le nommer on est là, on peut avoir des discussions, mais ce n'est pas la peine d'avoir dans l'intitulé parce que ça divise les femmes. Or, des lesbiennes disaient non, c'est pas une division, c'est une visibilité. C'est une question. Et donc, si, c'est ça aussi, c'est anche perché molte dicevano va bene che le lesbiche ci sono, comunque ci sono, ma perché dare, cioè perché mettere il nome nel. Cioè così, cioè non c'è bisogno, e infatti le lesbiche hanno detto no, cioè per noi è importante, vogliamo la visibilità. Torniamo all'incontro, dunque abbiamo sentito la poetessa parlare del come si passa e che mancanza ci abbiamo per passare di una stanza tutto per sé a una stanza tutta per noi. E dopo di che cosa si parla? Allora, après cette chambre à soi, chambre pour toutes. Ah oui, voilà, il y a eu le deuxième jour toujours, un dernier débat qui était la langue et la violence. Et là, c'était le témoignage sur la prison, sur les prisonnières politiques en Iran. E dunque dopo abbiamo avuto un dibattito e lì era sulla tematica della violenza, e lì c'erano tante testimonianze di donne che sono state in carcere. Et là, il y avait une femme prisonnière anciennement prisonnière politique en Iran pendant 11-12 ans. qui parlait sur son expérience, mais aussi les études qu'elle avait faites. Et le parallèle qui faisait elle par rapport au langage que les geôliers utilisaient avec les prisonnières politiques, et un écrivain universitaire juif à l'époque de nazisme, où c'était un homme universitaire que les nazis l'avaient amené pour travailler dans un camp des prisonniers. Et d'un coup, cet homme était avec les ouvriers. Et du coup, il était obligé d'avoir un langage pour pouvoir se faire accepter par ses compagnons de prison qui avait un autre langage, qui était le langage des ouvriers. Donc, elle mettait ça en parallèle. C'era una tipa che... Una cioè, prigioniera politica. Prigioniera politica, sì, per dire. Che lei ha fatto un lavoro e ha fatto anche... c'è delle studie su il linguaggio utilizzato dai quelli che lavorano in prigione, sì, come si chiamano? Gli agenti, chiamiamoli penitenziari. I penitenziari, sì. Con le prigioniere, e faceva un parallelo con il lavoro di un scrittore che universitario che è stato a un certo momento ebreo, che a un certo momento è stato nei campi di concentramento, lager, sì. Di concentramenti, e si è ritrovato con dei operai e dunque hanno dovuto trovare comunque una lingua comune. Un linguaggio comune, sì. Tu peux expliquer non, l'histoire de la langue du régime? Oui. Puoi spiegare un po' di più? Lorsque les islamistes ils ont pris le pouvoir en Iran, avant on appelait les gens madame, monsieur, khanoum, ara. Et là, ils ont changé et tout le monde d'un coup était obligé dans la rue et partout s'appeler frère aux hommes et sœur aux femmes. Et du coup... Quando gli islamici Khomeini hanno preso il potere in Iran, la lingua è anche cambiata. Se prima si chiamava signore, signore, quando si parlava alla gente, l'impostazione è diventata fratello o sorella, dunque la gente non si diceva signore, cioè fratello. Mm-hmm. Questo. E du coup cette chercheuse ex prisonnière disait que en prison les prisonnières elles étaient obligées on les obligeait de dire à leur tortionnaire frère au lieu de dire monsieur, c'était frère. C'était comment refuser dire frère à son... c'est-à-dire prendre le langage ou refuser le langage de son tortionnaire, et comment résister en même temps, et comment, en refusant cette langue, se protéger de ne pas être tout le temps torturé. E dunque lei raccontava come per loro era importante di non utilizzare, cioè, fratello verso il torturatore, sì. Ma nello stesso tempo dovevano anche valutare come proteggersi e resistere a questa lingua imposta. Proteggersi della tortura. Et la deuxième partie de cette discussion, c'était d'une jeune femme iranienne qui habite en France. Cette jeune femme, lorsqu'elle avait 6 mois, sa mère a été exécutée par le régime islamiste en Iran, ainsi que sa tante, c'est-à-dire la sœur de sa mère. Elle avait 6 mois et son frère avait quelques années de plus qu'elle. Et donc... Elle savait rien du tout sur la vie de sa mère, c'est juste elle savait que sa mère a été exécutée en Iran, jusqu'en 2004 où elle reçoit Grazie. E la seconda parte su questa tematica violenza, lingua, carcere è la, una giovane iraniana che vive in Francia e lei, la sua madre è stata assassinata dal regime iraniano quando lei aveva 6 mesi. La sua madre e la sua zia, la sorella della madre, e lei non sapeva nulla veramente della vita della sua madre, sapeva solo questo, e finché in 2004 Et en 2004, elle reçoit des cahiers de son grand-père qui venait de mourir, c'est-à-dire le père de sa mère, où cet homme avait écrit « Je ne suis pas quelqu'un très lettré, mais je ne peux pas mourir sans laisser les témoignages de ce que j'ai vécu en tant qu'un père de 2 filles » qui a été torturée et exécutée par le régime. Et elle avait, ce grand-père avait écrit toutes ces années où ces 2 filles, elles étaient en prison et comment elles étaient exécutées. Et lorsqu'il allait en visite de ces filles, qu'est-ce qu'elles voyaient, qu'est-ce qu'il entendait. Surtout, ce qu'il entendait, c'est la langue qui était étudiée. Et après, j'explique. E dunque 2004 lei riceve dei quaderni del suo nonno che è appena morto, ma che aveva lui deciso prima di morire di mettere su carta, di scrivere la cosa che aveva vissuto, anche se lui non sapeva, non era scrittore, non era un intellettuale, era così, e dunque decide comunque di mettere di dare traccia del vissuto, del suo vissuto come padre di 2 figlie che sono state in prigione, incarcerate, torturate e poi assassinate. Et cette jeune fille, depuis 2004, travaille sur ce cahier. Enfin, elle a déjà publié, ses cahiers en livre, et elle étudie. Elle exposait en fait sur la violence qui a été utilisée dans la langue pendant que le grand-père allait voir ses filles et ses filles lui disaient et les mots que les geôlières disaient au grand-père ou bien aux prisonnières politiques. Et donc, cette giovane donna a studiato dunque gli scritti del nonno, in cui lui comunque comunica quale linguaggio e quale violenza c'è nel linguaggio usato da i ritorturatori, quelli che stanno lì in prigione a tenere le figlie, eccetera, eccetera. Vogliamo accelerare la... sì, avremo la trasmissione del CLR affidata a noi. Abbiamo quasi finito, quindi siamo... Oui, però le troisième jour, c'était plutôt comment les femmes dans la poésie, comment la poésie peut être un lieu de langage des femmes et comment les femmes peuvent avoir leur propre langage, la langue au féminin ou la langue des femmes. Et le terzo giorno era intorno alla poesia e come nella poesia le donne possono avere una propria lingua o un proprio linguaggio, una poesia al femminile o piuttosto la poesia delle donne, questo è la più propositivo, insomma. Come... Volevo solo aggiungere, posso prendere 2 minuti, perché abbiamo anche parlato di, cioè queste erano le tematiche di quest'anno, e une parole sur les autres sujets qu'il y avait dans les années précédentes. L'année dernière, c'était sur le voile. Comment lutter contre le voile et qu'est-ce que le voile quelle est la relation entre le régime et le voile, et on sait, toutes les femmes iraniennes, que le voile est le talon Achille du régime islamiste. Le jour où les femmes enlèveront leur voile, le régime tombera. L'anno scorso era sul velo e proprio la relazione tra velo e regime iraniano, perché il velo comunque sappiamo che è comunque il tallone di Achille del potere iraniano, e secondo loro, noi sappiamo tutte come donne iraniane, che il giorno in cui le donne levano il velo il regime cade. Poi c'era potere donne, le femmes et le pouvoir. Et puis voilà, l'année d'avant, c'était les femmes et le pouvoir. Comment les femmes, elles sont exclues de lieux de pouvoir, ou bien lorsqu'elles sont au pouvoir, comment elles réagissent, ou bien dans les mouvements et dans les luttes, dans les milieux de lutte, dans les milieux horizontaux, comment elles reproduisent ou pas le même modèle masculin concernant le pouvoir. Dunque, come le donne sono escluse del potere, come agiscono quando sono al potere e come esercitano, si agisce il potere all'interno delle strutture anche di lotte e di movimento. Finisco con quello che una ancora interessante tematica era lotte delle donne iraniane in esile, con una relazione con le lotte di donne in Iran. Questo oui. Anche era bello. Oui, et puis une année, c'était sur comment créer un dialogue entre les mouvements des femmes exilées et les mouvements des femmes à l'intérieur d'Iran, et comment elles s'influencent ou pas, ou quelle est leur relation et quel rapport ils ont ensemble. Voilà. È interessante, guarda, quasi proporrei di proseguire nello studiolo, registrare un'altra oretta. No, sarebbe anche interessante sapere, per esempio, dopo fare un bilancio, insomma, dopo 34 anni, cosa ha lasciato questo sì. Tipo di incontri, che tipo, insomma, sarebbero ovviamente moltissime cose da dire. Sì. Noi però abbiamo terminato, temo, sì, proprio il tempo a nostra disposizione. Sky. Aspetta, mi cogli veramente impreparata. Io qua c'ho quello Iran che però avevamo detto. No, avevo detto troppo nazionalista quello. E quindi? Dove vado? Soyo Sky, Saye Sky. Saye Sky. Ma sta qui in mezzo? Vengo. Adesso guarda come perdiamo sto tempo prezioso a cercare Saye Sky. Dai. Va non bene, c'è. Noi non c'è, infatti, come volevasi dimostrare, quindi vabbè, torniamo alla canzone d'amore nazionalista, ci dispiace, grazie Anna, buon proseguimento d'ascolto. Merci a Claudia e Sylvie di me donner ce temps-là. Grazie. Grazie. E allora 21 e 37 minuti primi, adesso mandiamo la trasmissione, è una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, la trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane, decisamente un martedì negativo per loro, perché insomma gli abbiamo complicato la vita questo martedì e dobbiamo mandare la replica, è parecchio tardi in effetti. Noi ci scusiamo anche con chi è affezionata al loro ascolto, era ovviamente l'occasione di aver avuto un ospite qui, una compagna lesbica iraniana che ha partecipato a questi incontri, e quindi l'abbiamo trascinata negli studi e così interrogata qua va. Bene, vi lascio con il CLR, una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto.